Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:07 minuti inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. Noi poi ci risentiremo lunedì 24, settimana che si chiude, come i nostri GR vi hanno ricordato, con l'ultimo Consiglio dei Ministri di Mario Monti come Presidente del Consiglio e poi la sua salita al Quirinale. Per quello che riguarda invece la cronaca economico-finanziaria, ci occuperemo di due operazioni molto importanti avvenute oggi. Una è un'operazione di uno straniero che ha comprato in Italia. General Electric compra Avio, la parte motori, non la parte aerospaziale. È un valore dell'operazione molto, molto importante, anche perché in questo periodo non si vedono molte operazioni in cui gli stranieri acquistino o investano in Italia. L'altra operazione invece è l'opposto, è un'operazione italiana sull'estero e riguarda Fincantieri. Il valore dell'operazione è di 1 miliardo per quello che ha a che fare con Fincantieri. L'operazione di General Electric invece vale 3,3 miliardi. Tanto infatti ha pagato General Electric la componente motori di Avio, motori per aerei, diciamola tutta. E valutando e valorizzando il gruppo 8,5 volte rispetto agli utili, all'EBITDA, agli utili prima delle tasse, che è una buona valutazione. L'altra operazione, dicevo, invece riguarda il gruppo Fincantieri, che ha pagato quasi 1,9 miliardi di euro l'acquisizione di un colosso norvegese che produce sostanzialmente navi che servono a fornire assistenza alle piattaforme petrolifere offshore, un settore in cui Fincantieri non era ancora presente. Fincantieri opera soprattutto nelle navi da crociera. 349-238-6666 per i vostri sms, di questo parleremo, ma anche avremo l'astrologa, ve l'avevo promessa, anche perché mi sembra che le previsioni dei Maya, noi siamo qui per fortuna, la radio è qua, e mi sembra che i Maya siano come certi analisti o istituti economici di previsione, non l'hanno azzeccata moltissimo per ora, almeno speriamo. E sapete qual è la provocazione dietro l'astrologa, vi citerò anche le revisioni sulle previsioni di crescita operate dal Fondo Monetario, OCSE, Commissione Europea e quant'altri. Beh, voglio dire, a giudicare anche quest'anno da come hanno corretto le prime previsioni, ci può stare anche l'astrologia per definire l'orizzonte economico. È chiaramente una provocazione, ma una volta all'anno la facciamo. Avremo però anche un caso di un imprenditore che, rappresentandone altri, in realtà sono 50 piccoli e medi imprenditori veneti che sono andati come delegazione in Carinzia, in Austria, per dire basta a un paese, l'Italia, dove non c'è capacità progettuale e dove nell'ultimo mese, stando alla loro denuncia, si sono messe in campo solo misure per stritolare le imprese. Lo scorso fine novembre sono saliti in pullman alla volta di Klagenfurt. Però può far sorridere questa cosa, ma questi 50 imprenditori rappresentano comunque 1 miliardo di dipendenti e 100 milioni di euro di fatturato. Hanno visitato il parco tecnologico e scientifico di Klagenfurt e da lì sono tornati con un'idea molto chiara. L'idea è di spostare le aziende in Carinzia. Perché ne parleremo? Perché per far capire al prossimo governo, quello che verrà, visto che con oggi si chiude l'era Monti, un governo che ci ha permesso di portare lo spread a un livello di nuovo accettabile sui 300 punti, di riguadagnare credibilità internazionale, questo è innegabile, però è mancata, uno può dire perché la legislatura è finita prima del previsto, secondo me no, è mancata la parte propulsiva, e cioè qualche iniziativa che anche a costo zero, per esempio di carattere burocratico, per esempio di incentivazione fiscale, per far ripartire la nostra economia, agevolare il lavoro delle imprese e possibilmente ridurre le tasse a chi le tasse le paga, e quindi in primo luogo i lavoratori dipendenti, quindi in primo luogo il cosiddetto cuneo fiscale, quanto costa a un imprenditore pagare un dipendente, quanto entra in tasca al netto di tutto al dipendente stesso. A che ora è l'astrologa, volete sapere? È alle 18:15. Facebook chiaramente vale anche per scrivere al programma. Questi temi principali di oggi, in una giornata in cui purtroppo dovremmo ancora raccontare gli sprechi della nostra politica anche regionale. Questa volta tocca all'Emilia Romagna, a dimostrazione che non guardiamo in faccia nessuno, nonostante alcuni messaggi che puntualmente arrivano. Non ci interessa il colore delle regioni e non dovrebbe interessare neanche gli ascoltatori. Dovrebbe interessare solo che i politici di qualunque colore non rubino o non usino i soldi nostri per pagarsi spese proprie, personali e private. Le notizie in breve. C'è chi dice il fuso orario dei Maya e quello di Città del Messico. Vabbè, aspettiamo, comunque ci siamo anche con Città del Messico ormai, dai. Non mi sembra che stia capitando nulla a Città del Messico. La borsa oggi negativa, chiude la settimana con un meno 0,50%, niente di preoccupante visto che è 5 sedute di fila che guadagna la borsa, almeno 5 sedute. Parigi meno 0,31, Francoforte meno 0,40, Londra meno 0,37. Poco mossi oggi i titoli, nel senso che in pregilo guadagna il 2,30%, Tenaris più 0,80, Prismian più 0,80 anch'essa e A2A più 0,70. Banco Popolare meno 2,90, Popolare Milano meno 2,30, Monte dei Paschi meno 2,20, Popolare Emilia Romagna meno 2,20 anch'essa, Ubibanca meno 2, Unicredito meno 1,80, Fiat meno 1,70, Atlantia meno 1,70, Finmeccanica meno 1,60, Diassori meno 1,40, Intesa San Paolo meno 1,30 come Mediobanca e Mediolanum. Sì, c'è chi già scrive, è stato Draghi a far abbassare lo spread. È innegabile che il ruolo principale lo abbia avuto la Banca Centrale Europea di Mario Draghi quando ha detto, ricorderete, a metà estate interverremo senza limite per salvare le banche e anche l'euro e dare prestiti ai paesi, facendo capire che chi voleva speculare contro l'euro si sarebbe messo direttamente contro la Banca Centrale Europea. Però per quello che riguarda casa nostra, ma non lo dico io, il plauso all'azione di Monti è arrivato da tutti i consessi internazionali, Bruxelles, Fondo Monetario, OCSE e paesi dell'area euro. Serve anche questo per la credibilità di un paese, è inutile girarci attorno, no? Non è che un paese sia un'isola autarchica, c'era qualcuno che immaginava una cosa del genere. Vabbè, altre notizie riguardano l'oro fermo a $1,644, il petrolio in calo a $89. Tra il 2008 e il 2011, veniamo all'Europa, le banche europee nel periodo della piena crisi finanziaria hanno ricevuto un totale di 1.600 miliardi di euro di aiuti pubblici, pari al 13% del PIL europeo. La maggior parte sono banche non italiane, lo dico per precisione. E guardiamo la classifica, i primi beneficiari sono stati Gran Bretagna con il 19% del totale, Irlanda e Germania, ha avuto un bel aiuto la Germania sulle sue banche, il 16%, e da soli come valore, perché 19% alla Gran Bretagna, 16% alla Germania e anche 16% all'Irlanda, siamo quasi al 60% degli aiuti totali. La maggior parte di questi aiuti sono comunque garanzie, quasi 1.000 miliardi di garanzie. E il Fiscal Compact, quello che prevede che noi riduciamo il debito, da qua al 2020 portiamo il debito al 60% del PIL, dicevo, entrerà in vigore come previsto il 1 gennaio, è il patto per la disciplina di bilancio ratificato oggi anche dalla Finlandia e ha raggiunto quindi la ratifica minima necessaria di 12 paesi. Mi fate notare 8 sedute in rialzo consecutivo, avete ragione. Dunque, c'è chi mi definisce Zerbino di Monti e servo dei ladri tedeschi. Ma vabbè, adesso pure amico dei tedeschi, vabbè. Andiamo avanti. Standard & Poor's ha tagliato il voto a Cipro con un outlook negativo, e invece anche la Svezia oggi ha rivisto al ribasso in maniera drastica le stime della crescita economica. Quest'anno non andrà oltre lo 0,9% contro l'1,6% stimato in precedenza, e per il 2013 non sarà più un 2,7% ma un 1,1%. La Banca d'Italia dice che nel 2013, veniamo all'Italia, la ripresa ci sarà, ma serve una crescita robusta, e questo, su questo siamo d'accordo. Nel giorno in cui, ricordiamo, si è saputo in realtà ieri notte che è scomparso, le condoglianze alla famiglia, l'ex presidente dell'ABI, Corrado Faisoler, attualmente presidente del consiglio di sorveglianza di UbiBanca. Nel frattempo l'Istat rivela che a dicembre è sceso ancora il clima, la fiducia delle famiglie italiane. Siamo a livello più basso dal 1996. Voi direte: perché dal 96? Perché è da lì che abbiamo le serie storiche, da lì che abbiamo conosciamo i dati, per cui possiamo dire tranquillamente che da quando esiste questo indicatore sulla fiducia delle famiglie siamo a livello più basso di sempre. Ma lo dico così ci chiariamo su questo e anche su una mancata iniezione di fiducia che il governo Monti appunto non è riuscito a dare. Su questo sono d'accordissimo, cioè non si è sentito molto il rigore e molto meno la speranza. Sì, hanno ragione anche altri ascoltatori che ricordano non solo a che livello fosse lo spread prima dell'arrivo di Monti, 540-550 punti, cioè il doppio quasi, ma anche e soprattutto due cose. La prima, che la Spagna veniva considerata meno a rischio di noi, cioè lo spread spagnolo era più basso del nostro. Adesso invece, correttamente, perché siamo un paese più solido della Spagna, non abbiamo la bolla immobiliare che hanno loro e esportiamo a livello tedesco, ora noi abbiamo uno spread più basso di, a seconda dei giorni, 60, 70, 80 punti rispetto a quello spagnolo. Quindi in primo luogo recupero c'è stato anche in paragone con la Spagna. In secondo luogo ricorderete che negli ultimi giorni del governo Berlusconi, prima che arrivasse Monti, rendevano di più e quindi le obbligazioni a breve, la scadenza a 2 anni, che quelle a 10 anni, che è una cosa insolita perché uno dovrebbe chiedere più interessi quando ti presta i soldi più a lungo, per 10 anni. Ma se tu non sai quale sarà il futuro di un paese, si inverte la curva dei rendimenti, e cioè chiedi di farti pagare tanto per prestare soldi a breve e poi in realtà sui 10 anni manco ragioni, manco ti poni il problema di sapere se l'Italia ci sarà ancora in questo stato. Ecco perché era pericolosissima l'inversione di tendenza, perché in un mondo normale rendono di più le obbligazioni a lunga scadenza, i prestiti a lunga scadenza, di non quelli a breve. A novembre di un anno fa eravamo nella situazione opposta. Ancora le retribuzioni in Italia contrattuali, l'aumento acquisito nel 2012 è fermo all'1,5%. Parleremo anche del Sulcis, dei muratori che si sono murati, dei minatori che si sono murati nella miniera. Alle 4:30 incontrava anche iniziava anche l'incontro tra il presidente della regione Sardegna Cappellacci e una delegazione dei lavoratori ex Rockwall del Sulcis. Sono 54 minatori. Detto questo, abbiamo anche una parte che riguarda i costi della politica, come annunciavo. La farei oggi, però, dopo il meteo e la pubblicità, perché prima vorrei raccontare due operazioni importanti da cui comunque l'Italia esce bene. Ripeto, perché in un caso un gruppo come General Electric compra e paga 3,3 miliardi Avio motori, nell'altro caso un gruppo italiano come Fincantieri compra il 50,7% della norvegese STX OSV, che produce appunto navi di supporto per le attività, per le piattaforme petrolifere. Eh sì, perché il gruppo General Electric, attraverso la controllata G Aviation, ha rilevato la parte aeronautica di Avio. L'operazione complessiva vale 3 miliardi e 300 milioni di euro, questo che è l'importo pagato da General Electric. La divisione invece aerospaziale di Avio resterà al gruppo italiano. Il prezzo d'acquisto pagato da G e per la divisione aerea di Avio rappresenta un multiplo pari a 8,5 volte gli utili prima delle tasse, l'EBITDA. Finmeccanica, che di Avio possiede il 14%, incasserà dalla cessione 260 milioni di euro. Avio è un gruppo tra i leader a livello mondiale per la progettazione e produzione di propulsori aerospaziali a 5.000 motori. A 5.200 dipendenti, ricavi per 2 miliardi di euro l'anno, di cui però 1,7 miliardi riconducibili proprio alla divisione aeronautica. Per il 90% li realizza all'estero, oltre che in Italia è direttamente presente in altri 10 paesi: Stati Uniti, Cina, India, Brasile, Francia, Belgio, Germania, Polonia, Olanda e Guyana francese. L'azionariato era composto da Seven Limited, che è un fondo di private equity, con l'81% e Finmeccanica col 14%. Mentre General Electric, capogruppo appunto di General Electric Aviation, è presente in Italia dal 1921, nel nostro paese ha 7.000 dipendenti in 7 divisioni, 20 sedi. La ricorderete perché nel 1994 acquisì il nuovo Pignone di Firenze, poi trasformato nel quartier generale di General Electric Oil and Gas a livello mondiale. E General Electric Aviation è leader mondiale nella fornitura di motori a reazione e turboelica, componenti, sistemi integrati per aeromobili commerciali ma anche militari. Siamo in collegamento con il presidente e amministratore delegato di General Electric Italia, Sandro De Poli. Buonasera. Buonasera. Dunque, che cosa avete comprato? Io ho cercato di chiarirlo esattamente, e che cosa invece resterà al gruppo italiano? Noi abbiamo comprato la componente di Avio legata ai motori d'aereo, che è specializzata in quello che in gergo tecnico si chiama trasmissione di potenza di precisione. La specialità di Avio ha questa azienda sicuramente una posizione di leadership a livello mondiale in questo dominio. E quindi l'avete comprata per questo motivo a un prezzo interessante, 8,5 volte l'utile, l'EBITDA, gli utili prima delle tasse. Da pagare, insomma, non è poco, no? L'abbiamo perché vediamo un valore significativo in questa azienda. Questa azienda con la quale collaboriamo ormai da 28 anni è ben conosciuta all'interno del gruppo. Oggi una parte significativa del suo fatturato viene prodotto con produzioni che viene acquistata da General Electric, ma soprattutto vediamo abbiamo visto la necessità di investire in prospettiva di quelli che saranno i futuri sviluppi nel dominio dei motori di aereo. I dipendenti italiani, la sede italiana resteranno? Perché, insomma, il timore è sempre quello, lo dico con molta tranquillità, ma quando arriva un investimento straniero il timore è che poi uno possa fare, diciamo, possa spostare anche il centro e l'ombelico. Voi manterrete quello che è l'assetto sia produttivo che occupazionale di Avio per la parte motori, e avete anche intenzione di investire? Noi abbiamo preso degli impegni ben precisi con il governo, con il quale abbiamo avuto un dialogo molto aperto e franco, e in quest'area ci siamo assolutamente presi degli impegni non solo di mantenere i livelli di produzione, i livelli di occupazione in Italia, ma in prospettiva di implementarli, perché abbiamo un piano di sviluppo per almeno 1,1 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni, solo per quanto concerne lo sviluppo ulteriore dell'attività di Avio. Senta, 1,1 miliardi di dollari in 10 anni vuol dire anche nuovi occupati, secondo lei? Direi, è chiaro che questo prevede sicuramente degli investimenti significativi in forza lavoro, sia dal punto di vista della formazione che dal punto di vista di assunzione di nuove risorse. Voglio portare a questo proposito un esempio a mio avviso significativo. Parlavamo in precedenza di Nuova Pignone. Sì. Quando Nuova Pignone è stata comprata nel 1994 aveva circa 5.000 dipendenti a livello mondiale. Oggi il gruppo Oil and Gas, del quale Nuova Pignone è il quartier generale mondiale, ha più di 33.000 dipendenti. Senta, questo vuol dire che in realtà in Italia è possibile fare investimenti, oppure che è possibile fare investimenti solo quando sono grandi aziende, magari partecipate dallo Stato, visto che Finmeccanica, che va al 14%, ha l'azionista di maggioranza nel tesoro, ma quando si tratta di investire su aziende più piccole, i lacci, i lacciuoli burocratici fanno desistere gli investitori stranieri? È chiaro che forse noi in questo caso siamo stati fortunati, in quanto avendo intavolato una discussione molto, molto diretta, molto franca con le varie componenti coinvolte, con il governo in testa, siamo stati guidati nel percorso per poter portare a favorevole conclusione il processo. È chiaro che per l'investimento straniero in Italia la chiarezza del quadro normativo è fondamentale. Noi in questo caso pensiamo di aver avuto un ottimo trattamento, un ottimo dialogo, siamo riusciti a interfacciarci a tutti i livelli e ad aver avuto risposte che ci hanno permesso di procedere piuttosto velocemente. E questo è importante quanto le ricordavo, cioè la rapidità dei tempi di risposta. Nel ringraziare il presidente, amministratore delegato di General Electric Italia, Sandro De Poli, per questa operazione, diciamo, estero su Italia, adesso invece ci occupiamo di un'operazione, diciamo, opposta da questo punto di vista, un'operazione in cui un'azienda italiana, un gruppo italiano, compra una società estera. Eh sì, un italiano, nel caso specifico Fincantieri, che ha firmato oggi un accordo per acquisire da STX Europe il 50,75%, quindi la quota di maggioranza assoluta di STX OSV, ossia la società quotata alla borsa di Singapore, leader mondiale nella costruzione di mezzi di supporto alle attività di estrazione e produzione di petrolio e gas naturale. Si chiamano in linguaggio tecnico offshore support vessels, sono tutti quei mezzi che servono per poi estrarre offshore, quindi in mare aperto, petrolio o gas. L'operazione ha un valore di quasi un miliardo, in realtà pari a 900 milioni di euro. Verrà finanziata prevalentemente con le risorse interne di Fincantieri e facendo ricorso però anche a un finanziamento bancario concesso da un pool di banche composto da Banca IMI, BNP Paribas, la filiale italiana, Banca Carige e Unicredit. Un ruolo ce l'avrà anche la Cassa Depositi e Prestiti e nel ruolo di finanziatore garantito da SACE. Fincantieri è uno dei principali gruppi di cantieristica navale al mondo, ha un giro d'affari di 2 miliardi e mezzo di euro l'anno e ordini per 8 miliardi. Al 99% è controllata da Fintecna, che è la finanziaria del Ministero delle Finanze. In Italia ha 8 siti produttivi, ce ne occupiamo anche per via delle tensioni che si creano sull'annuncio di esuberi, mi riferisco a Monfalcone, Marghera, Ancona, Palermo, Castellammare di Stabia, Muggiano e Riva Trigoso, nonché Sestri Ponente. 4 cantieri negli Stati Uniti, 8.300 i dipendenti italiani. 9.200 sono invece i dipendenti di STX OSV e 10 cantieri in tutto il mondo, 5 in Norvegia, 2 in Romania, 1 in Vietnam, 1 in Brasile e un altro che stanno costruendo sempre in Brasile. Ha ricavi per 1,6 miliardi e ha un carico di lavoro, cioè ordini, per 2,1 miliardi di euro. Dottor Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, buonasera. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, vi siete comprati chi produce mezzi supporto alle attività di estrazione e produzione di petrolio, cioè fanno che cosa? E fanno mezzi che si chiamano mezzi di lavoro, cioè aiutano le piattaforme petrolifere e le navi che estraggono a poter lavorare. Quindi è uno dei settori più importanti che esiste al mondo in questo momento, di alta tecnologia, di grande capacità non solo costruttiva ma ingegneristica. Quindi è leader mondiale nel suo segmento e viene ad accompagnarsi a Fincantieri, che a sua volta è leader mondiale nei segmenti in cui opera. E voi raddoppiate le dimensioni, perché se ho ben capito 8.300 dipendenti italiani con 9.200 dipendenti loro e 10 cantieri, fate un salto, raddoppiate o no? Beh, più o meno, no, nel senso che loro rappresentano il 40%, noi comunque, avendo anche meno dipendenti, il valore delle navi che costruiamo, quindi soprattutto quella della crociera, è molto più alto, insomma, certo, relativamente parlando. Ma questa operazione vi serve per posizionarvi in un nuovo segmento, si direbbe in gergo, cioè voi costruite navi da crociera, ma non solo, mentre qui andrete a costruire navi che servono ad aiutare le piattaforme petrolifere, se posso metterle in questo modo. Sì, noi la pensiamo così l'azienda, dottor Baresoni, no? Perché è sempre complicato, normalmente l'industria lavora a bassi margini, lo sanno tutti, no? però lavora poi per settori che hanno margini molto elevati, e senza questa industria poi quei settori non potrebbero esistere. Quindi noi diciamo, siamo numero uno al mondo nelle crociere, nell'offshore, siamo un player importante nei megayacht oltre i 100 metri, quindi nell'offshore, e vogliamo essere uno dei primi al mondo nell'oil e gas con questa acquisizione. Noi facciamo un balzo anche dimensionale, i primi quattro o tre o quattro, a secondo di come si evolvono le cose nei prossimi mesi, sono tutti coreani. È vero. Che operano su una fattispecie di naviglio che è un livello più basso di questo nostro. Questo è, allora, per poter mantenere la competizione anche in futuro, noi abbiamo bisogno di crescere, abbiamo bisogno di aumentare la capacità reddituale dell'azienda in un settore che presenta margini superiori di quello che non rappresenta normalmente la costruzione delle crociere. Sì, che ha margini quindi superiori. Mi dica un'ultima cosa, dottor Bono, ma per i dipendenti italiani, tra l'altro voi oggi avete annunciato che c'è un accordo sullo stabilimento di Castellammare di Stabia a Napoli, ma questa acquisizione avrà una ricaduta diretta e concreta anche per l'occupazione in Italia oppure no? O si tratta di un'acquisizione in cui voi andate a coprire un segmento che non coprivate, ma non cambierà nulla per il gruppo Fincantieri quanto a Italia? Allora, lei prima ha ricordato che eravamo famosi per essere sulle pagine dei giornali e delle televisioni, perché chissà perché abbiamo, in tempo di crisi abbiamo denunciato che avevamo bisogno di riorganizzare l'azienda, no? Essendo un'azienda pubblica, diciamo che la nostra uscita era maggiormente, come dire, criticabile da parte di certi ambienti, però non lo dovevamo fare e l'abbiamo fatto. Ho detto prima che sulle crociere la redditività è molto più bassa, quindi se noi non aumentiamo la redditività globale dell'azienda, in futuro si soffre. Quindi la ricaduta c'è soltanto sia in termini, chiamiamoli così, di anticipare possibili riflessi negativi di minor competitività sul segmento delle crociere, sia in termini di ricadute, diciamo, proprio di lavoro nel paese. Noi abbiamo una componentistica importante e riteniamo che possiamo dare loro. E però questa è una società che ha una capacità progettuale, che vende in tutto il mondo, facendo le navi in tutto il mondo, e quindi, come voglio dire, parte di quelle navi domani, perché no, le potremmo fare in Italia, se l'Italia si ricordasse di essere un sistema paese. Cioè, questa è una società norvegese che è diventata una delle prime al mondo, il settore delle società offshore in Norvegia è importantissimo, perché dal petrolio del Mar del Nord della Norvegia loro ne hanno fatto poi un'industria cantieristica e anche ingegneristica. Ecco, questo è il paese nostro. No, ho capito quello che dice lei, ma mi dica una cosa: quando lei dice che da oggi comincia una nuova era, per concludere, possiamo dire o possiamo sperare che inizi una nuova era anche per i dipendenti italiani di Fincantieri? E dipende anche da loro, l'abbiamo sempre detto. No, io spero proprio di sì. Noi abbiamo fatto degli accordi di efficientamento che riteniamo importantissimi. E di questo, secondo me, bisogna anche che il Paese si cominci a rendere conto che noi operiamo, non solo noi, ma tutta l'industria che opera sul livello mondiale e globale, ha bisogno di avere quelle condizioni minime di competitività, senza le quali possiamo mettere delle pezze, però in futuro, voglio dire, non è che poi le pezze possono resistere fino alla fine, no? Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non ho confuso, lo dico a chi ci scrive su Facebook con gli SMS, l'EBITDA con l'utile prima delle tasse. Stavamo solo, per sintesi, dicendo che pagare, nel caso di General Electric su Avio, un valore 8 volte e mezzo l'EBITDA è dare un bel prezzo, visto che si parla di utili attuali 8 volte, per far capire a tutti, questo non è un programma per addetti ai lavori, per far capire a tutti, hai pagato 8 volte e mezzo l'utile vero, netto di tutto, attuale che produce Avio. Vuol dire che tu ritieni che nei prossimi anni l'utile sarà almeno 8 volte e mezzo quello attuale, mettiamola così, come prospettiva, come ragionamento. Comunque, la borsa. Right, Guido Maurino, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Meno 0,40 Milano, meno 0,15 Parigi, meno 0,50 Francoforte, meno 0,30 Londra, meno 1,36 l'America. Oggi vendite sulle banche che venivano da giorni in cui, grazie allo spread in calo, avevano recuperato abbastanza. Banco Popolare meno 2,70, Popolare Emilia Romagna meno 2, come la Pop Milano e Unicredit. Monte dei Paschi meno 1,75%. Tra l'altro lì ci sono anche le valutazioni dell'ABI espresse ieri, no? Sulle sofferenze. Sì, ci sono queste valutazioni per cui i ricavi del sistema bancario continueranno a contrarsi anche nel 2013, secondo le stime dell'ABI, e una ripresa arriverà solo nel 2014. Sui risultati delle banche peseranno anche tutte le parti di svalutazioni e di sofferenze che dovute alla crisi economica e che l'ABI ieri ha richiamato in prospettiva, per cui ha invitato un po' tutto il settore a cercare di moderare i costi e di abbassare almeno di un punto e 7, un punto e 8 per i prossimi anni i costi del sistema bancario. Ancora sulle borse in calo, qui pesa complessivamente, anche se il calo non è niente di grave, il dubbio sugli Stati Uniti, cioè se riuscirà Obama a mettersi d'accordo con il Congresso e con la componente repubblicana sul fiscal cliff, sullo scoglio, il precipizio, come dicono alcuni, fiscale. C'erano alcune aspettative che si potesse risolvere la partita entro Natale. Ormai è chiaro che entro Natale non si arriverà ad un accordo, le posizioni rimangono ancora piuttosto distanti e in questa fase gli operatori vedono ancora molta incertezza su questa vicenda. Tra gli altri titoli, oggi, bene, ricordavamo all'inizio, Impregilo più 2,46%, ma anche Prismian più 1,5%, A2A più 0,80% come Tenaris. Impregilo. Sì, per quello che riguarda Impregilo, prosegue un pochettino il buon momento del titolo. Una decina di giorni fa aveva presentato il suo piano per i prossimi anni, che prevede cessioni di attività considerate non strategiche per 1,5 miliardi. Da allora è sempre più o meno cresciuto il titolo, ha già incamerato in 10 giorni un guadagno del 10%, anche oggi è andato bene. Ancora tra i titoli, tra chi è andato bene, oltre a Prismane, A2A, Tenaris più 0,70, Saipem più 0,76%. Tra i titoli minori invece, però stiamo guardando ai migliori e peggiori in assoluto, bene si è mossa Acea più 4,70. Sì, ha annunciato ieri un acconto sul dividendo di 21 centesimi, è un annuncio un po' a sorpresa questo acconto sul dividendo che verrà pagato il 3 gennaio e quindi oggi sul titolo sono fioccati gli acquisti e ha chiuso a più 4,73%, è stato fra i titoli migliori. I peggiori invece, Milano Assicurazioni meno 11, Ion Renewables meno 10, Class Editori meno 9,80, Saras meno 5,70, Milano Assicurazioni meno 5,60%. Tra chi è cresciuto vorrei citare però anche Primi sui Motori più 5,60, ho scoperto cos'è, non faccio più una società che si occupa di motori di ricerca, e Le Buone Società più 12,60%. C'è chi scrive invece che occuparvi del frigorifero di Renzo Bossi, parlate dei miliardi spariti dal Monte dei Paschi. Allora, sono due cose molto diverse, abbia pazienza. Adesso racconteremo di interessanti incarichi nella regione Emilia-Romagna e delle spese della regione Lombardia. Siamo tutti d'accordo che la gestione del Monte dei Paschi non è stata una bella gestione, se poi devi chiedere 4 miliardi quasi allo Stato di aiuti che poi non sono a fondo perduto, Il Monte dei Paschi ripaga anche il 10% di interesse, non ricordo male, Guido, come prestito, 3 miliardi e 9, li dovrà ridare. Però abbiate pazienza, un conto è un intervento che hanno fatto tanti altri paesi, anzi molto più di noi, ricordavamo i dati in apertura, oggi la Commissione Europea ha calcolato quanti aiuti hanno ricevuto le banche dall'inizio della crisi, tra il 2008 e il 2011, 1.600 miliardi le banche europee, di cui la fetta più grossa se la sono presa le banche britanniche il 20%, irlandesi il 16% e tedesche il 16%. Tedesche, occhio a fare i primi della classe. Questa è un'operazione che è avvenuta in tanti paesi. Da noi il Monte dei Paschi è la banca che palesemente ha dovuto chiedere aiuto più di altre, e dopo il via libera della Commissione Europea l'aiuto è arrivato. Ma questa è un'operazione che vediamo anche in altri paesi. Qualcuno che si compra il frigorifero con e lo mette come rimborso delle spese per la politica, secondo me in altri paesi in questi casi i ministri si dimettono quando si scopre che la colf, come si usa in Gran Bretagna, veniva pagata in nero. Si dimettono, non stanno a questionare sull'attacco alla politica, l'attacco alla casta. Grazie Guido Marino, buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Colle sulle 24 ore. Hai ragione, non ho dato il valore dell'euro, 1,31,65, stabile qui, ma l'euro è mesi che è stabile. E dall'euro alle regioni italiane, prima di parlare poi con gli imprenditori che non ce la fanno più a reggere il carico burocratico e fiscale di questo paese, i minatori del Sulcis, e poi anche chiudiamo con l'astrologa, viste le previsioni degli altri ci sta anche l'astrologia. Abbassare più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag più. Eh sì, perché continua a uscire materiale dalla regione Lombardia, visto che ormai sono 62 consiglieri di Pirelloni indagati su 80, in questo caso per peculato. E oltre alla cosa che farà più domani più presa sui giornali, il fatto che Renzo Bossi avrebbe presentato un rimborso come spese sostenute per la sua attività di consigliere anche per l'acquisto di un frigorifero da 159 euro. Comprato il 1 agosto 2011 al Media Market, ma pure il frigorifero. Magari serviva durante il consiglio regionale per tenere le bibite, non so. Poi c'è Angelo Gianmario, altro indagato. Allora, a Gianmario, IPM, Alfredo Robledo e Paolo Filippini e Antonio D'Alessio contestano circa 114.000 euro di spese, di cui la grossa parte taxi e noleggio dell'auto, rimborsati secondo l'accusa illecitamente coi soldi del gruppo consiliare. Allora, lui si giustifica, avrebbe giustificato davanti ai magistrati un acquisto da 90 euro in gelati. Allora, ha speso 90 euro in gelati e ha caricato tutto come nota spesa della regione, ovviamente, no? Anche se era al mare in Liguria, ma perché li ho offerti ai bagnanti. Oh, se qualcuno era lì, ci scriva, ci chiami. Sì, è vero, Gianmario mi ha offerto un gelato. Dopodiché, ma che me ne frega? Li offri ai bagnanti, li paghi tu. Poi ha detto, non ha saputo dare spiegazioni su per gli 800 inviti per un evento di Natale per cui avrebbe speso 200 euro caricandoli alla regione. E sui taxi la risposta è più bella. Oh, gli contestano 114.000 euro, non bruscolini. Perché prendevo così tanti taxi? Perché così, non guidando, potevo leggere e studiare per prepararmi all'attività del consiglio. Adesso, da domani, tutti quelli che devono andare a un appuntamento sono autorizzati dal loro datore di lavoro ad andare in taxi, così possono studiare e prepararsi. Ma si studia prima, non in taxi, ci si prepara prima. Gianmario, pure impreparato arrivava. Ma se ci spostiamo poco sotto la Valpadana e in Emilia Romagna, ne scopriamo delle belle, perché a giudicare dal racconto di Roberto Magarò, che è un dirigente del Servizio Difesa del Suolo in pensione ed è segretario generale dei dirigenti regionali, pensate che in Emilia, sapete cosa sono gli incarichi speciali? Avrebbero dovuto essere ridotti gli incarichi speciali, ce n'erano 158, vengono dati ai dirigenti per operazioni speciali, no? Ad hoc. Allora, i requisiti per ottenere un incarico speciale, non sto scherzando, l'esistenza in vita, cioè non devi essere morto. Non c'è un requisito. Sono incarichi di diretta collaborazione agli organi politici, ma non devi essere laureato, non devi avere una competenza, devi vivere. Essere vivo. Vivere è un'altra cosa, essere vivo. Allora, mega dirigenti, pensate che nel 94 in Emilia Romagna gli incarichi speciali erano 158 e già allora si gridava lo scandalo, vanno ridotti di almeno 10%. Bene, al 30 giugno 2012 sono 255, di cui 18 a dirigenti e 30 a giornalisti, più 60%, con svariati milioni di euro all'anno di spesa in più. E poi le consulenze esterne. Pensate che in Emilia Romagna le delibere delle consulenze legali richieste dall'amministrazione sono segretate, cioè non, il contribuente non può sapere chi viene incaricato e quanto viene pagato con i soldi che lui versa alla regione. Poi c'è la cosa bellissima di tre direttori generali con contratto a termine assunti a tempo indeterminato per un giorno solo. Voi direte perché? Perché in quel modo tu puoi chiedere di essere licenziato, cioè di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro. Non lo puoi fare se sei a tempo determinato, ma se sei assunto sì. E si sono beccati una buona uscita di 200.000 euro per un giorno di lavoro. Era il 2006. Il direttore generale, l'ex sindacalista della CISL Gaudenzio Garavini, lo stesso coinvolto nell'affare del bono, no? Quello che ha portato anche le dimissioni del sindaco di Bologna per il Cinzia Gate. Poi c'era un dirigente, Stefano Rotundo, che il direttore generale dell'organizzazione, Lorenzo Broccoli, voleva far diventare dirigente, lui non l'era ancora. Che cosa fa? Arriva terzo a un concorso per due posti, ma improvvisamente la regione dice che ha bisogno di un terzo posto e quindi anche Rotundo ce la fa. Resta in servizio per le solite 24 ore in modo da risolvere poi consensualmente il rapporto e 200.000 euro, bravi. Sarà un caso, ma l'Emilia Romagna registra, dopo Abruzzo e Liguria, l'incremento più alto nel triennio 2008-2010 per la spesa del personale. È al primo posto, dopo le Marche, per i costi dei direttori generali. Soluzione, come si fa a risolvere questo problema? Giustamente tagliare i buoni pasto dei dipendenti. Ma vergognatevi, dai. E premiare con 400.000 euro i 10 direttori generali, tutti giudicati eccellenti da Vasco Errani. Vasco Errani, ma lei che cos'ha? Una squadra di Nobel, tutti e 10 dirigenti, tutti bravi, tutti da premiare con 400.000 euro, mentre riducete i buoni pasto per i dipendenti. Dai, quinto potere, vai. Voglio che vi alziate proprio adesso, andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Eh sì, perché nel frattempo qualcuno se ne va. C'è stata una delegazione di 50 imprenditori veneti, Vicenza, che sono andati a visitare il parco tecnologico di Klagenfurt in Carinzia e hanno detto: beh, noi ci trasferiamo qui. Ho capito bene, Sandro Venzo, titolare dell'azienda Venzo Stampi di Romano De Zerino, provincia di Vicenza. Buonasera. Sì, buonasera, dottor Barisoni. Uno di questi 50 imprenditori, piccoli imprenditori veneti, lui ha un'azienda a Romano De Zellino a Vicenza, che dopo aver visto Klagenfurt in Carinzia, aver visitato il parco scientifico tecnologico, hanno detto: beh, sapete che c'è, ci spostiamo lì. Devo dare una notizia però appena battuta dalle agenzie: l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, ha deciso di prorogare fino al 31 marzo la sospensione dei mutui per le piccole e medie imprese e anche l'allungamento dei mutui stessi. Lo ha comunicato poco fa. Comunque, Venzo, lei quanti dipendenti ha? Cosa fa? Noi in azienda siamo in 12, siamo in 12, 1.3 milioni di fatturato, un'azienda fortunatamente in crescita, che però appunto deve giustamente guardarsi intorno, perché in questo paese sembra che ormai fare l'impresa sia diventato un po' un fastidio, nel senso che... No, nel senso che ci stanno togliendo l'entusiasmo. Un imprenditore senza entusiasmo non potrà mai mandare avanti un'impresa come deve. Ma voi siete andati a fine novembre in Carinzia, ma cosa avete trovato in sto parco scientifico-tecnologico da farvi dire: ma vogliamo trasferirci? Abbiamo trovato delle regole, delle cose talmente semplici che ci stiamo domandando come mai da noi hanno reso tutto così complicato e ci sono paesi vicini a noi dove invece riescono a crescere con delle regole veramente, veramente tra virgolette sciocche, perché quando lei ha una tassazione fissa del 25%, però le tasse le paga su una somma molto diversa dal nostro paese, perché lì puoi ancora detrarre tutto ciò che ti serve per fare impresa, quindi se anche le tasse sono il 25% sono sicuramente su un importo molto molto diverso da quello italiano. E poi ci sono le certezze delle regole, perché ti dicono benissimo che se tu fai un patto adesso, in questo momento qua nel 2012, se anche cambiano governo non cambiano le regole. Quindi c'è una certezza del diritto che non è sicuramente come quella in Italia. Poi ti dicono ad esempio... Quanto costa aprire un'azienda in Carinzia? Ma le dico che 37.000 euro sono il capitale minimo sociale che lei deve versare in un conto, 37.500 euro, che lei deve versare in un conto corrente e depositarne realmente la metà. E poi le dirò di più, per 3 anni le danno loro il commercialista, in modo che innanzitutto tengono sotto controllo la situazione. È giusto, se il commercialista è della regione... Esatto. E va di meno, diciamo, da tutto. Esatto. No? E poi è anche giusto che ti dicono benissimo, guardate che le nostre regole sono regole. Cioè, ci siamo trovati veramente di fronte un paese che dice, se avete voglia di venire a fare gli imprenditori in maniera seria, guardate che qui c'è la possibilità di farlo e c'è la possibilità di crescere. Crescere vuol dire creare sviluppo e occupazione, perché ricordiamocelo bene, le nostre aziende creano sviluppo e occupazione. Quindi dobbiamo ricordarlo al governo. Sì, è che se andate in Carinzia l'occupazione l'ha fatta con gli austriaci. No, lo dico perché... Guardi, innanzitutto non è proprio così, perché loro accettano tutti i membri della comunità europea. Quindi puoi anche andare con i tuoi dipendenti se sono d'accordo. Quindi non ti obbligano ad assumere persone locali. Ed è un valore aggiunto anche questo, perché alla fine uno dice non ho un obbligo ad assumere. Cioè loro dicono... Chi qua viene a fare impresa, se anche porta 10 italiani, 10 dipendenti italiani, questi compreranno una casa, vivranno in Carinzia, quindi creeranno consumo. Sì, no, ho capito benissimo. Tra l'altro la Carinzia dice, poi non abbiamo la controparte, che ci sono 10 imprese al giorno, lo sostengono le autorità austriache, che soprattutto da Veneto e Friuli Venezia Giulia chiedono di trasferirsi in Carinzia. La cosa bella è che le danno anche l'elenco delle aziende, perché a noi hanno dato un elenco di aziende e anche un cioè lei le può andare anche a visitare, quindi non è che si inventano le cose. No, non ho mai detto questo. Mi dica una cosa, la burocrazia com'è? Allora, loro ci hanno fatto un esempio che a un certo punto uno dei 56, perché eravamo in 56, ha chiesto se eravamo su scherzi a parte. Allora, loro ti dicono che quando hai il benestare, quindi in una settimana che hanno il benestare per aprire la tua attività produttiva, ok, lo stesso giorno vengono 3 enti competenti, uno è comunale, uno sono i pompieri e l'altro è un ente praticamente per gli infortuni. Vengono la stessa giornata, quindi si mettono d'accordo e ti avvisano quando vengono, ok? E quando se ne vanno via ti dicono sì, ti lascio i certificati e puoi cominciare a lavorare, oppure no, sistema questo o quello. Da noi, te lo dicono loro, ti dicono non è come in Italia che vengono 10 enti diversi in 10 situazioni diverse e ognuno dice una cosa diversa dall'altra. Quindi ti prendono tra virgolette anche un po' in giro ed è una cosa Questa intervista, non lo dico a chi sta scrivendo, è così l'agenda politica che vorremmo dare al prossimo governo del paese. Siccome Monti non è riuscito a toccare questo aspetto, a nostro avviso poteva usare di più sulla burocrazia, su quello che non è un costo per lo Stato ma è solo un costo per l'imprenditore. Assolutamente, perché... tra l'altro chi mi dice sul governo Monti, pensate che adesso cadendo il governo verranno meno anche le norme previste dal Consiglio dei Ministri. Una vietava le urne ai condannati per reati gravi in via definitiva, ma l'altra era quella che proibiva ai politici trombati, cosiddetti, di occupare posizioni nelle municipalizzate o nelle aziende comunque partecipate da regioni, comuni e province. Anche questa decadrà. E immagino con grande gioia di chi pensa di non farcela alle prossime elezioni. Ma torniamo a noi. In Italia quanta burocrazia ci... Mi sembra 3 anni per aprire un capannone, giusto? Ma guardi, noi abbiamo fatto i conti che io avevo dichiarato 7 kg per fare un ampliamento di carta. 7 kg di carta? 7 kg. 7 kg okay, di burocrazia? Esatto, per un ampliamento di un capannone. Le dirò di più. Abbiamo fatto le statistiche dicono che su 10 persone una ormai è dedicata a solamente la gestione della burocrazia. Quindi vuol dire che su un'azienda a 3 dipendenti è sempre una, capisce? Quindi lei va veramente ad avere un peso, un macigno che a un certo punto è diventato insostenibile. Noi continuiamo a dire questo al nostro governo centrale, al nostro governo regionale. Cioè, abbiamo bisogno che gli imprenditori possano fare quello che sanno fare, cioè poter lavorare, creare occupazione e creare sviluppo. Senta, a chi scrive che ve ne andate perché non sapete fare impresa e sputate sul piatto dove avete mangiato, un ascoltatore? Guardi, cosa io le posso dire questo. Ripeto, io sono negli ultimi anni, fortunatamente siamo cresciuti come azienda e mi sto guardando attorno proprio perché sto crescendo. Quindi ora ho la possibilità di fare qualcosa in più. Io sono stanco di sentire imprenditori che non ce la fanno più, imprenditori che magari si trovano a dover pagare l'IMU su capannoni vuoti perché non hanno più neanche dipendenti, perché il mercato è diventato veramente cattivo, perché io dico a tutti che questa è una guerra economica, non è altro che una guerra economica su quella che siamo è d'accordo. In questa e durante metamorfosi. Le guerre ci sono anche le leggi speciali, ecco perché immaginavamo un'iniziativa un po' più forte del governo Monti, anche del ministro Passera. Leggi speciali, visto il periodo, per deburocratizzare, poi autocertificazioni, magari con sanzioni altissime, anche penali e amministrative, se uno dichiara il falso, però libera gli imprenditori, non ci si può mettere ancora 3 anni per aprire un capannone, 3 anni, a meno che poi non ci sia anche un guadagno per i vari enti in questa macchina burocratica, perché poi sappiamo che delle volte ci può essere chi ha interesse a fare oliare, mettiamola così, la macchina burocratica, ma 3 anni e 7 chili di carta sono una follia nel 2012 e non costa nulla fare una legge che dica sburocratizziamo, tu apri un'attività e poi andiamo a controllare se quello che hai dichiarato è giusto e poi casomai ti becchi anche una bella condanna. Che cosa vi ha promesso Zaia, visto che l'avete incontrato venerdì scorso? Allora, guardi, noi ci siamo impegnati... Il governatore del Veneto, Zaia. Noi ci siamo impegnati come imprenditori di portare nei prossimi 60 giorni una serie di richieste, perché ripeto, la nostra volontà è quella di cambiare il sistema e non fuggire dal paese. Noi abbiamo creato anche una pagina su Facebook dove, come l'aprite, vedete la bandiera italiana, quindi non è che vedete altro, vedete imprenditori legati al territorio che provano una nuova carta, che è quella di dire proponiamo addirittura noi le cose, perché a un certo punto forse stiamo anche mettendo su le vesti della politica, visto che non sono riusciti a fare determinate cose, però alla fine dobbiamo anche vivere e vivere d'impresa, quindi ci sta fare un elenco di richieste, ma ci sta anche essere pronti ad andare in quei territori dove ti lasciano fare impresa. Ma adesso cosa farete per concludere? Voi vi rincontrerete il prossimo 27 dicembre? Esatto, allora il nostro è un percorso, è iniziato un percorso perché una cosa che doveva essere un paio di macchine che andavano a fare una visita in Galizia è diventato un pullman, quindi non ci aspettavamo una cosa così, come non mi aspettavo di essere costantemente chiamato o addirittura imprenditori che vengono in azienda da me a domandarmi se possono unirsi a noi. Quindi si sta veramente creando un fronte che sta crescendo di giorno in giorno. Su Facebook in questo momento siamo quasi in 160 e quindi sono tutti imprenditori disposti a metterci la faccia per cambiare, ma anche disposti a dire me ne vado, visto che tu stato non fai niente per tenermi, quindi non è l'andare via, è il sentirsi in più, cioè non ti senti più ben voluto nel tuo paese. In bocca al lupo, Venzo, io spero che lei e gli altri 50 restiate in Italia, nel senso che non è che tifi Carinzia, però mi rendo conto che non si può avere a poche centinaia di chilometri una specie di paradiso burocratico, oltre che fiscale. Sul fisco non entro perché l'Austria non ha i problemi che abbiamo noi, però almeno sulla parte burocratica, sulla semplificazione, sull'agevolazione, un po' di fantasia, cavolo, no? La fantasia non può essere applicata solo sui rimborsi elettorali, fatemelo dire. In bocca al lupo a lei e a tutti gli imprenditori come lei, quelli che appunto continuano a crescere, vogliono restare in questo paese, però si trovano con le spalle al muro. Buon Natale anche a lei e a tutti gli imprenditori, Sandro Venzo. Grazie a lei altrettanto. Buonasera. Fuga da New York. Non si riesce a uscire da questo, è una cosa che è un tema che affrontiamo da 3-4 anni, non capisco, mi sfugge qualcosa nel perché la classe politica regionale, soprattutto nazionale, non arrivi a delle formule così semplici. Intanto però il Sulcis è di nuovo in agitazione, nel senso che l'incontro è iniziato alle 4:30, si sono murati dei minatori nella miniera, 54 ex minatori che stanno occupando da oltre un mese la galleria Villa Marina di Monteponi. Hanno deciso di murarsi dopo un primo incontro andato male ieri all'interno della galleria. Le ragioni di questa protesta le ha raccontate il delegato dell'RSU CGL Salvatore Corriga alla nostra Valeria De Rosa. Occupazione che nasce in seguito al mancato rispetto di un accordo firmato un anno fa con la regione Sardegna, che prevedeva il reinserimento in società regionali che si occupano di bonifiche della società Carbosulcis. Nella giornata di ieri c'è stato un incontro in regione dove è stato rigettato completamente questo accordo, stracciato, e ci stanno proponendo l'inserimento in una società privata che non ha tra le altre cose neanche grosse garanzie. Non è che noi stiamo rinunciando ad un posto di lavoro, noi stiamo solamente rinunciando all'ennesima beffa che questi lavoratori, e me compreso, hanno subito in questi anni. Noi siamo tutti ex minatori e siamo i giovani che 20 anni fa hanno accettato forzatamente, perché c'erano quasi obbligato, la sfida delle nuove iniziative. 20 anni fa siamo andati a fare lana di roccia. Ora, dopo 20 anni, la Roccola ha chiuso gli impianti in Italia e ha delocalizzato le produzioni. Ma voi adesso siete in mobilità? Adesso noi siamo in mobilità, a gennaio vedremo ridurre ulteriormente del 20% il nostro assegno. Che quanto varia, prendete adesso? Ecco, è un range che va da 6 a 900 euro, quindi immagini il prossimo range sarà da 4 a 700 euro probabilmente, 6,80, quindi provi a immaginare come si potrà vivere con 400 euro. Con la maggior parte delle famiglie che sono monoreddito. L'ultimo gesto estremo è che da stanotte quei lavoratori si sono murati vivi all'interno. Quali sono le condizioni all'interno? Perché avevo letto che già qualche settimana fa qualcuno non era stato bene. Le condizioni di salute sono quelle. Lì dentro abbiamo un tasso di umidità che è del 100%, praticamente dopo 10 minuti sei già bagnato, quindi si è costretti ad arrivare vicino all'imbocco per asciugare gli indumenti, perché all'interno è una cosa veramente insopportabile. Le condizioni purtroppo sono quelle di uno che sta dentro da un mese. L'unica cosa che un po' ci dà il morale, ci dà la forza di andare avanti, è la solidarietà della gente che viene quasi quotidianamente. Ci siamo. Eh sì, dopo le varie previsioni è la volta dell'astrologa, che ha un gruppo di ascoltatori evidentemente più pazzi di me che l'attendono da un'ora e mezza. Grazie a Mirti, buonasera. Buonasera. Io lo ricordo sempre, lei ha scritto un libro per il Sole 24 Ore, Investire con gli astri. Mirti, la fregata Mario Draghi, lei ci aveva detto a metà anno che tutto sarebbe peggiorato da ottobre con Saturno in Scorpione, che la Grecia comunque restava in difficoltà, ma invece Mario Draghi con le sue iniziative a giugno-luglio poi ha bloccato queste difficoltà. Che segno ha Draghi, lo sa lei? No. Sì, è della Vergine. Della Vergine? Sì. De mi viaggio. Non completamente. Senta, mi dà le previsioni per il 2013, visto che ormai ci siamo? Sì, se mettete, oggi poi se vorrei fare un tappeto tipo Tron di prima, così le facciamo anche, diamo un po' più di importanza, dai. Oggi. Vada. Oggi c'è il solstizio d'inverno alle 12:13. E su questo ci arrivavo anch'io, Mirti. No, volevo dire che per noi è una data molto importante e che segna proprio l'inizio del nuovo anno, il quale anno non nasce sotto auspici così positivi, però ci dà le opportunità di lotta e di confronto positive. Ci sono alcuni punti abbastanza significativi, che sono la seconda metà di marzo, in cui ci sarà un grande incontro in cielo tra Marte e Urano, poi ci sarà la seconda metà di luglio con Marte in Cancro, quindi di nuovo qualche subbuglio in Europa e nella Grecia, nei vari paesi, e poi la fine dell'anno. Per il resto, sui mercati, soprattutto maggio, il transito di Marte nel segno del Toro potrà dare degli effetti abbastanza spettacolari. Direi che è un anno non migliore, non peggiore del 2012, continueremo con lo stesso trend. Capirai. Senta, no, ma questo devo dire che lo prevedono anche gli istituti seri, che dicono meno 1%. Prima era la ripresa nel 2013, poi la ripresa a metà del 2013, mo la ripresa all'ultimo trimestre del 2013. Non credo. Lei quando la vede la ripresa, Mirti? È 2015. 2015? Mm-mm. Ripresa veramente positiva. Per il resto si va avanti così, si procede per tentativi. E per l'Italia nei rapporti internazionali, Monti e dei pesci, questo lo so anch'io. Sì, io penso che abbia delle buone chance. No, non mi faccia le previsioni politiche dell'astrologia, perché sennò dicono che schiero il programma. Però l'astrologia dice che è un buon anno per i pesci, questo possiamo dire, non ho capito. Sì, un buon anno per i pesci, decisamente buono, perché Saturno dallo Scorpione li aiuta e poi negli ultimi anni avevano avuto l'intralcio di Urano, che adesso non c'è più. Quindi, e invece Berlusconi e Bersani, così la chiudo? Maluccio. Perché? È perché in primavera non hanno dei buoni pianeti. Ma infatti, loro ma sono infatti le elezioni sono a febbraio, Mirti, non a primavera probabilmente. Ho capito, però purtroppo lì ci sono poi dei transiti che non sono così bene auguranti. Senta, quindi ho capito, per la borsa metà marzo un giro difficile, poi l'altro metà luglio, perché oggi inizia l'anno astrologico con col solstizio. Sì, perché il solstizio d'inverno è proprio la data d'inizio. Vera ripresa solo nel 2015, Italia con difficoltà per giovani nei rapporti internazionali e Monti lo vede bene. Mi dica una cosa però, la Merkel ce la farà alle elezioni? Che sa che ci tengo. Ho dei dubbi. Piuttosto. Perché? E perché anche lei non ha dei transiti particolarmente, lei è cancro. È cancro dei greci, ha... soprattutto, comunque, se mi dica. E quindi non ha dei transiti particolarmente benauguranti, se ce la fa per il rotto della cuffia, ma sono abbastanza dubbiosa. Ma com'è che i Maya non l'hanno azzeccata? Questa è una mia curiosità. Ma perché io ritengo che 3.000 anni fa dare una data del 21 dicembre 2012, come se adesso io e lei dicessimo succederà qualcosa di importantissimo il 30 ottobre del 12.000, capisce? Non... Sì, sì, o come se dicessimo la ripresa arriverà nel 2014, certo, sono queste cose che lasciano il tempo. Che trova... E il Sagittario come lo vede nel 2013? Il Sagittario discretamente è estate brutta. È estate brutta? Vabbè, Mirti, noi la teniamo d'occhio. Ma ci siamo già presi altre estati brutte, anch'io sono sagittario. Vabbè, e cosa faccio? Vengo a dormire a casa sua. Senta, no, noi la teniamo d'occhio comunque, come tutti, come teniamo d'occhio e verifichiamo le previsioni di Goldman Sachs, del Fondo Monetario, appunto, dell'Ocse. E tanto, voglio dire, qui in questo siamo, non ci sta azzeccando nessuno da 4 anni, avevano detto che era una crisi, lo dico a chi scrive, che era una crisi fatta a V, poi a W, poi a L, mostri, ma fa l'alfabeto, grazie, a grazia. Mirti e a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi come sempre per l'assistenza in redazione, teniamo Tron sotto che ci sta, un augurio di buon fine settimana, noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente. Giorgio Fedò 1919, regali indimenticabili. Vi ha presentato Focus Economia.